sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Buonasera da Blu Radio Veneto, in diretta in questo momento sono le 21 passate da 5 minuti in questo preciso istante. Questa è la voce di Agostino Spolore a tenervi compagnia fino alle 22.30 con Maurizio Calzavara, in una trasmissione questa sera splendida secondo il mio punto di vista, fortemente voluta da tutti e due i noi amici qui di questa emittente, proprio per regalare, farci un regalo e regalare agli ascoltatori questa serata così splendida. Allora, Blu Radio Veneto è un'emittente che trasmette nelle frequenze di 88.700 e 94.600. Se ci volete raggiungere telefonicamente, vi ricordo il nostro numero telefonico che è lo 049 875 6423, oppure se avete voglia di mandarci qualche sms anche per fare qualche domanda a questa parterre eccezionale di questa sera, e allora il nostro numero telefonico di cellulare per mandare i vostri sms è il 346 23 20 033. Abbiamo un sito, il nostro è www.bluradioveneto.it, e potete raggiungerci anche nella pagina di Facebook che è appunto Blu Radio Veneto, oppure anche c'è bluradioveneto.org per quanto riguarda bluradioveneto.rockwave se ci volete collegare per quanto riguarda la musica rock. Ci potete ascoltare anche in streaming audio e video, però questa sera il video abbiamo problemi con il server e quindi non c'è possibilità di collegarsi, quindi le nostre partecipanti avranno modo di sbizzarrirsi come meglio vogliono. E invece lo streaming audio è appunto collegandovi nel sito, sotto la scritta streaming c'è una freccetta con di colore nero, cliccando lì si sentirà in streaming. Buonasera Maurizio. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. Michele, ma fatto così Michelin in regia, non è detto ragazzi, non è detto che il video non funzioni. Ah, sta provando, grazie. Sta provando. Abbiamo Michele Tosoni in regia stasera. Purtroppo per voi ragazze funzionerà forse anche il video. Buonasera ragazze, state bene? Buonasera, stavo meglio sapendo che il video non funziona. Allora, anch'io, buonasera a tutti. Abbiamo quattro fanciulle, posso chiamarvi così? Devi chiamarmi così. Sono quattro delle più belle voci, lo dico senza voler essere ruffiano tra virgolette, ma sono quattro tra le più belle voci di Padova. Abbiamo Alessandra Pascali, la Rita Muro, l'Anna Tosato e la Claudia Feronato. Buonasera, ciao. Questo è un progetto che va avanti da un paio di anni. Personalmente ho tentato da un paio di anni di fare questo progetto, poi è arrivato Agostino a maggio di quest'anno. Sei arrivato? No, io sono arrivato a novembre dell'anno scorso, però in diretta ho cominciato il 1° luglio. Esatto. Quindi il tempo con te vola, Agostino. Sì. E quindi questo progetto che va avanti da un paio di anni, finalmente siamo riusciti a portarlo in porto. Che cos'è questo progetto stasera? Sono delle canzoni tradizionali e non natalizie, in chiave assolutamente acustica, in chiave vocale. Questo è l'importante. Una cosa che non è mai successa in tanti anni di Rockaway, ma succederà fra qualche secondo. Una cosa bellissima, secondo me. È stato fortemente voluto, come dicevo, appunto per dare questo omaggio sia a loro sia ai nostri ascoltatori, insomma, per regalare questa serata un po' diversa. E sarà la prima puntata, poi ne faremo un'altra. Sì, loro sono disponibili, vengono tutte le sere. Esattamente. Okay. Allora, da dove cominciamo? Da Alessandra. Da Alessandra Pascali. Bene, eccomi qua. Allora, benvenuta Alessandra. Grazie, è un piacere essere qui con voi, e devo dire che sono anch'io particolarmente legata a questo periodo, quindi ci tenevo ad esserci, a dire la mia e augurare un felice Natale a tutti. Allora, ti sei emozionata l'altra sera, questa sera invece è proprio tutta tua la trasmissione. Ormai sono una professionista della radio, direi. È andato bene con Piero l'altra sera. Ho detto sera. Ben quattro parole l'ultima volta. Sì, quindi... ma comunque perlomeno ti hai fatto capire che siamo persone semplici, normali. Certo, siamo molto bene qui infatti. E ci fa molto molto piacere. Allora, perché sei qui allora? Ti abbiamo chiamato perché ci devi far sentire la tua voce ovviamente. Qualcosa inerente al periodo natalizio. Noi questa sera cercheremo di parlare il meno possibile, proprio per dare spazio a voi, alle vostre voci e ai vostri musicisti. E cosa ci fai ascoltare questa sera? Allora, il brano che ho pensato di proporre si chiama Somewhere Over the Rainbow, o anche conosciuto come Over the Rainbow, ed è un classico. Non è propriamente natalizio, ma è un brano che a me personalmente ricorda questa questo periodo dell'anno. È stato interpretato da Judy Garland nel film Il Mago di Oz nel 39, quindi è un brano un po' antico della prima parte del Novecento, che è quella a cui io poi sono particolarmente affezionata. Lo propongo perché ha un messaggio di speranza, ed era anche tra l'altro uno dei brani che veniva associato al movimento di liberazione omosessuale, quindi abbiamo pensato di fare questo omaggio. Dico abbiamo perché questa sera sono qui con il mio pianista preferito. Si chiama Ivan Zuccarato, molti sicuramente lo conoscono, l'hanno già sentito. Ciao, uno dei pianisti. Buonasera Ivan. Più apprezzati qui in zona, e quindi ho pensato insomma di ti sei andata proprio alla grande di venire con lui. certo allora ti aspettiamo anche la prossima volta magari con d'accordo lui. Sei libero perché è impegnatissimo, quindi certo. Bisogna prenotarlo prima. Allora facciamo ascoltare la canzone, Alessandra. D'accordo. Blu Radio, dai colore alle tue frequenze. Why can't I? Why can't I? Cosa ti dicevo, Maurizio? Cioè, parliamo io e te, facciamo finta che lei non ci sia. Cosa ne pensi? Hai sentito? È bello e giarettiano, secondo me. Ma cosa dici? Un pochettino giarettiano, ma nel senso positivo del termine. Molto positivo. Fantastica Alessandra, fantastica veramente. Senti, ma noi vogliamo sapere chi è Alessandra Pascali. Chi è Alessandra? Allora, io ho cominciato a cantare diversi anni fa, adesso è un po' di tempo che lo faccio, cerco di dire la mia a modo mio, e i brani che interpreto solitamente appartengono a diversi repertori e generi, quindi a me piace molto il jazz, ma mi piace molto il gospel, ho cantato tanti anni con le altre ragazze nei Summertime e ultimamente anche con Luca Pitteri, con il suo coro di Venezia, sto facendo diverse cose da tanti anni, diciamo che non c'è un genere che mi identifica probabilmente, perché per me interpretare i brani è un po' come con la pittura, ogni canzone è un quadro e ogni volta si mettono i colori e le forme che si desidera mettere in questo quadro, poi che sia appartenente al repertorio jazzistico piuttosto che della musica pop sacra o qualsiasi tipo di canzone ha un messaggio e un colore che si può dare, insomma, quindi io cerco di dire la mia, di dare il mio colore. È un colore decisamente jazzato, giustamente jazzato. Il Mago di Oz non era proprio jazzato, ma tu l'hai dato quel tocco al tuo, perché doveva essere così. Probabilmente sono gli ascolti, io come dicevo anche martedì sono molto appassionata di dischi strumentali, di tante, ho ascoltato molta musica e probabilmente si sente che mi piace un po' quel filone, però faccio di tutto per non cantare solo jazz in realtà, no, ma canto un po' di tutto, ma esce fuori anche quello. No, perché non c'è solo jazz, dal jazz si dipana, si allarga l'orizzonte. Certo, certo, sì. Certo. Ricordiamo che comunque, tanto per fare un po' di pubblicità ad Alessandra, che lei ha cantato con un componente dei Rolling Stones. Certo, sì, hai cantato con il membro non effettivo del gruppo che ha sostituito Bill Wyman nel 1983. Sì, lui è stato un successo due o tre anni fa, mi pare, e un chitarrista vicentino ha deciso di formare una band con quelli che per lui erano i rappresentanti della zona, quelli che magari erano a suo gusto dei musicisti validi, e abbiamo fatto questa band di supporto con Daryl Jones. Certo, che lui ha suonato con Miles Davis, ragazzi. Sì, ha suonato con Sting, ha suonato appunto con i più grandi in assoluto, quindi è stato emozionante come incontro, ma molto positivo, molto bello. Certamente. Cosa ci fai ascoltare adesso? Allora, il prossimo brano è un brano che viene interpretato proprio per chi ama il jazz molto spesso, è un brano di Duke Ellington, anche questo è della fine degli anni 30, del 37, e abbiamo pensato di proporlo perché una volta giocando con il piano e la voce, solitamente succede così che Ivan suona molto e tanto e tanto bene, e in quel caso stava suonando un riff, una cosa che aveva in testa, abbiamo provato a citare questo brano e abbiamo visto che stava nascendo qualcosa, e quindi ve la proponiamo così estemporanea come è stata rappresentata in quell'occasione. Caravan. Okay. Caravan. Blu Radio Sera. Fantastica. Bravissima. Grazie, grazie. Cullata da un piano alla cicoria stavolta, più che chiacchierare. Te cosa dici? È un po' la Petrucciani. Okay. Benissimo. Alessandra Pascali si è poc'anzi eseguita con le canzoni straordinarie. Bravissima, è stata bravissima. Poi questo era un pezzo molto più difficile del precedente, secondo me, vero? Alessandra? Sì, sì, sì, sì. È un pezzo, come dicevo prima, a cui sono affezionata, quindi probabilmente lo sento particolarmente. Non lo vedo più difficile, ma lo vedo molto stimolante. Lo vedo perfetto. Da dipingere in questo caso con tanti colori, sì. Allora ci vediamo. Ci vediamo più tardi. Come d'accordo, grazie. Come i grandi palcoscenici, cambiamo di scena, arriva un'altra solista. Un'altra solista. Però prima ricordiamo chi siamo. Sì, esattamente. Allora, siamo Blu Radio Veneto, questa è la voce di Agostino Spallone, che assieme a Maurizio Calzavara stiamo conducendo questa trasmissione con le quattro voci padovane locali, quindi sono estremamente orgoglioso e contento che siano qui, perché diamo voce anche alla nostra cara amata città Padova e anche alla nostra emittente, che è certo un motivo d'orgoglio, insomma. Ricordiamo Michele Tosoni in regia, la Chiara che fa tutte le fotografie, e poi farà anche il catering più tardi. Certo, non ci siamo mai fatti mancare niente. E poi salutiamo anche le nostre affezionate ascoltatrici, la Nicoletta, la Silvia e la Patrizia, che sono sempre all'ascolto. E ricordiamo che dopo alle 22:30 c'è comunque sempre Alberto Prisco con la sua trasmissione, certo, di classifica di rock, che va dalle 22:30 alle 24. Lui è il nostro l'art director. Il nostro direttore artistico per quanto riguarda la ricerca anche dei cantanti. Esattamente. Abbiamo Rita Moore. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Ciao Rita, sono contentissimo che sei qua. Grazie, io sono veramente onorata. Ti ringrazio dell'invito, ringrazio voi veramente di avermi dato questa possibilità. Grazie. Delle quattro è quella che personalmente sto parlando, è quella che conosco un po' di più, perché la seguo da molti più anni rispetto alle altre tre. È vero, confermo. Perché ti vedevo con anche la Claudia, veramente, però quella che ha avuto più confidenza sei stata proprio con te, insomma. Tu mi hai colpito con questa voce così, questo modo di cantare alla Liza Minnelli, adesso la sentirai. Sì, no, dai, sempre non usiamo paroloni, è meglio non fare paragoni prima di cantare. Però ti posso garantire che noi, quando eravamo dalla parte di qua, cioè del pubblico, sì, ovviamente, sì, che tu cantavi con i Summertime, sì, davi un'immagine talmente bella, avevi una voce così suadente, così bella, così potente, anche perché tu sei una voce potente. Grazie, adesso grazie, la veramente. Cioè, e emozionavi tantissimo. Tantissimo, grazie. Grazie. Allora. Quando si fa qualcosa che ti piace davvero, poi vabbè, dirò quello che dicono bene o male tutti i musicisti, tutti i cantanti, quando si fa qualcosa che ti piace, che lo senti nell'anima, è difficile non farlo arrivare alla gente. Cioè, il messaggio più bello è quello di far sentire quello che hai dentro. Lo faccio ogni volta e spero, insomma, adesso mi dai conferma di questa cosa. Sì, certo. Ma mi io fa non molto mai piacere. Non ho mai avuto dubbi su di te, sai. Ogni qualvolta che ti venivo a sentire. Troppo buono, grazie. Ogni volta che ti venivo a sentire eri sempre straordinaria. Grazie. Allora, io direi di far ascoltare una canzone. Come vocalisti si rispetti, cambiamo anche il musicista, vero? Esattamente. Allora, io presento Marco Zago al piano, è un mio carissimo amico, è un pianista eccezionale, lo sentirete. Questa accoppiata comunque assieme ad altre tre persone l'avremo anche il 23. Certo. Con esatto, i White Voices, perché questa è una costola, diciamo, sì, dei White Voices. Esattamente. Che è assieme a Marco Mengato, alla Laura Pirri. Giusto. Pensavo fossero 5, sono 4. Sono 4. Sì. Li sentiremo appunto il 23. Sentiremo anche Alessandro. Sì, anche sentiremo Alessandro alle percussioni. Vedi che avevo ragione, c'è anche sono 5. Una lunga maratona del giorno 23 dicembre, giovedì, dalle ore 21 alle 24. E sempre con argomento natalizio. E sempre con argomento natalizio decisamente un po' diverso. Come è la tradizione di Rock Away o di Blu Radio. Sì. Adesso facciamo ascoltare la voce di Rita. Allora. Certo. Bene, allora noi vi presentiamo come primo brano un brano dei Queen. Si chiama Love of My Life, è un brano a cui noi teniamo tantissimo, è un inno all'amore e direi che in questo periodo natalizio ci sta a pennello e lo interpretiamo alla nostra maniera. Prego Marco. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Bringing back, don't take it away from me. Privato. Le interviste di Paola De Simone. Sono Paola De Simone e vi aspetto tutte le notti dal lunedì al venerdì con Pubblico e Privato, incontri con personaggi del mondo dell'arte, un'ora in cui andremo ad approfondire la conoscenza di protagonisti e comprimari, sempre con una luce accesa sulle vicende umane di ognuno. Dal lunedì al venerdì, Pubblico e Privato, le parole della notte in blu. A mezzanotte su Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Allora, Maurizio, cioè, dicevo, qui siamo di fronte a... Dicevo una cosa fra me e te. Lo spirito di Fred Mercury si è trasformato, si è ricalcato, si è, ecco, è ritornato. Dopo vi pago allora, queste belle parole vi pagherò. Senti, Rita, fammi una cortesia, va. È una cosa mia personale che ti chiedo. Mi fai quel pezzettino che mi piace tanto? Una cosa veloce. Ok. And I still you. Cioè, adesso tu capisci quando io andavo a... Grazie. Gentilissima. Tu capisci, Maurizio, quando io andavo a sentire queste voci qua, non potevo non essere, come dire, emozionato, la parola minima, insomma, che mi viene in mente. Sono straordinarie, guarda, tutte e quattro, non c'è... Cioè, tu hai scritto, abbiamo scritto nell'autobiografia, amante della musica gospel soul. Qua c'è molto soul. Mi reputo molto soul, perché proprio sono cresciuta ascoltando solo musica soul, purtroppo da una parte, perché spesso nel mio percorso ho imitato tanto le altre cantanti. Adesso sto cercando un po' la mia strada. Ma soul vuol dire anima, quindi soul vuol dire anima, quindi vuol dire forza penetrativa. Sì, sì, infatti ho preso molto il bello di questa cosa, anche poi. Chi è adesso Rita Muro? Chi è adesso Rita Muro? Devo ancora scoprirla, no, scherzo. E chi è? Io faccio tutto quello che mi piace, cerco di fare tutte le cose che mi emozionano, non punto a niente in particolare. Quando mi si propone un progetto, cerco sempre di capire quante emozioni mi regala, quindi sono stata molto fortunata in questo periodo. Soprattutto ho avuto veramente delle belle soddisfazioni anche facendo piccole cose con persone giuste, con la motivazione giusta, e quindi continuerò a far così. Ricordiamo che fai parte anche del quintetto con Flavio. Esattamente, sì, quale mando un caro saluto a Flavio. Lo salutiamo tantissimo, sì. E anche i fratelli Piovano, anche ovviamente. I fratelli ciao Piovano, Ale, assolutamente, ciao. E poi c'è il quinto, c'è Antonio Donner al piano, esatto, che non mi ricordavo, un altro mio carissimo amico. Sì, abbiamo e un progetto molto bello. Fai parte anche dei White Voices. White Voices, ci rivedrete. Altri gruppi, altre cose? Altri gruppi no, per il momento sono ferma a tre. A tre. Mi sono fermata. Allora, cosa ci fai ascoltare adesso? Come da sombrano prettamente natalizio, direi. White Christmas. Aspetta. aspetta che vi devo mandare un saluto, c'è arrivato un dispaccio dal nostro corriere qui. Allora, ciao Ago, sono Alice dei Summertime, sono qui che ti sto ascoltando con Alessandro Arcolin e volevamo mandargli un abbraccio, un bacio speciale a Rita e Claudia. Grazie Alice, grazie. Claudia qui con me ti saluta, grazie. Dopo davvero te lo farà, quando sentiremo Claudia lo saluterai. Grazie Alice, un grazie bacione. Alice, grazie Ale. E apro una piccola parentesi. Alice, grazie per ieri, siete stati eccezionali, emozionantissimo. Chiuso la parentesi. Bene, e niente, quindi dicevo, un brano natalizio, White Christmas, lo facciamo, lo interpretiamo alla nostra maniera. Ok. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. SMS 346 2320 033. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Allora, anche questa è un'altra canzone sempre inerente a Natale. Cioè, un po' di Dixieland non sta mai mica male, secondo me. Un po' di Dixieland fa bene Dixieland. Sì, ogni tanto. Ogni tanto fa bene. Rita, grazie anche a te. Grazie a voi. Grazie a voi. Dato la dimostrazione della tua bella voce. Grazie. Che non ancora te lo dica io, perché l'hanno detto già in tante persone. Troppo buoni, davvero, grazie. E vi anche ringrazio. Per te dopo, allora facciamo. Perfetto, sì, ci vediamo dopo. Ci sentiamo dopo. Esattamente. Grazie ancora, Rita. Grazie. Io ne approfitto finché arriva la terza ospite. La terza ospite che tra poco sentirete. E ne approfitto per fare per leggere un comunicato, visto che anche tra l'altro queste quattro voci sono molto dentro al fatto di fare della beneficenza. Per gli alluvionati di Padova e anche per altre attività. C'è c'è una specie di, come dire, un grande Natale a Padova, qui c'è scritto una città con i fiocchi, c'è questa specie di spettacolo, chiamiamolo così, una manifestazione che si svolgerà il 18 e 19 dicembre a Padova, ovviamente la sede è alla sede polivalente di Via Pinelli 2, dove ci saranno questa manifestazione, ci sono delle bancarelle, dei ragazzi di giocattoli che usati, tra l'altro giocattoli usati, che per la raccolta fondi degli alluvionati e la consegna tra l'altro di letterine a Babbo Natale. C'è anche la competizione di torte creative, quindi chi volesse partecipare nella realizzazione di questi dolci, anche salati, a tema natalizio ovviamente, basta che siano belli oltre che buoni ovviamente, ma anche i papà, non solo le mamme, possono farli, quindi armatevi di mestoli di padelle e tanta fantasia. I partecipanti potranno comunque cimentarsi nella realizzazione di dolci anche salati a tema natalizio che nell'aspetto siano artisticamente confezionati e decorati. Per partecipare scrivere a queenartstudiopadova@gmail.com oppure telefonare al 334-65-44-7738. Ripeto, 334-65-44-7738. Considerato lo spirito della manifestazione, io credo che chi volesse partecipare sia una cosa molto ben fatta e soprattutto di dare la massima aderenza, perché è qualcosa che per gli alluvionati va solo che esclusivamente piacere. Vi ricordo che queste torte in concorso, comprese le vincitrici ovviamente, dopo giudizio della giuria a fine manifestazione saranno distribuite ai partecipanti e agli invitati, che potranno così contribuire con un'offerta alla raccolta fondi appunto per gli alluvionati. Ricordo domenica 19 dicembre, ma anche sabato 18 dicembre dalle 19:30 alle 23. Maurizio, bene, adesso c'è l'Anna. Bene. Buonasera a tutti. Buonasera Anna. Anna Tosato è una delle ultime che ho imparato a conoscere, noi ci sentiamo spesso tramite Facebook. Sì. L'ho invitata a questo evento questa sera proprio perché nel frattempo siamo diventati buoni amici, ci sentiamo spesso, ci scambiamo anche musica, lei è una insegnante tra l'altro di musica, c'ha un sacco di allievi, qualcuno ce lo porterà anche qui in radio, mi ha detto. Sì, sì, sì, alcuni sono veramente... Stanno veramente facendo un bel percorso personale. Sì. C'è un ragazzo che mi ha contattato, esatto, lui. Che mi ha detto che verrà con te, ovviamente, insomma, con la sua produzione, il suo disco, quindi lo sentiremo, avremo modo anche così di dare atto ai tuoi insegnamenti. Cosa insegni nella scuola? Insegno canto e tecnica, quindi vocale, e poi un po' di complementi di armonia, pianoforte o chitarra. Proprio le basi, non lo strumento tecnicamente parlando, giusto perché un allievo abbia la possibilità da solo di potersi accompagnare nello studio, perché se non conosce la musica e semplicemente butta fuori la voce, forse ha poca coscienza, sì, di quello che fa. Per cui cerco sempre di imprimere un po' negli allievi, perché i cantanti generalmente sono soprattutto quelli di canto moderno, rispetto ai classici che sono invece seguono un rigore. Sono sempre un po' pigri per quello che riguarda lo studio, per cui cerco di imprimere un po' questo germe. Poi chi vuole sicuramente lo porta avanti e chi invece... Ti ascoltano? Beh, ci sono alcuni allievi che sono veramente molto bravi e si ostinano soprattutto nelle cose che non capiscono. Lui è il tuo allievo? No, lui è... uno dei musicisti miei di riferimento. Che si chiama? David Sotocero. Benvenuto anche a te, David. Buonasera. Buonasera, David. Sei passata dall'amore viscerale per John Baez, Neil Young, Johnny Mitchell alla musica latinoamericana, alla musica argentina. Come mai questo passaggio? Bello passaggio, però passato dal folk del Greenwich Village alla musica argentina. Al folk della argentina. Musica argentina. In realtà ho veramente trapassato Molti generi, ho visto che... Sì, moltissimi generi, non li abbiamo elencati, chiaramente, sono tanti. Anche il gospel è stato anche uno... Anche il funky. Il soul, sì, sono stati generi che ho attraversato, soprattutto il gospel, perché comunque è comunicativo, al di là della musica, delle armonie, insomma di quello che è la struttura musicale di un brano, mi riferisco soprattutto ai testi, quindi al significato, e ho visto che analizzando un po' il percorso, il mio percorso musicale, quello che mi ha sempre guidata alla fin fine è stato il significato di quello che la voce conduce. Per cui i testi nella musica folk di Bob Dylan, John Baez, il movimento anche politico che c'era in quegli anni alla musica gospel, che comunque ha un significato spirituale altissimo, per cui alla fine il significato, e anche nella musica argentina il legame con il popolo, con la gente, con la terra, è quello che viene spesso cantato nei brani più tradizionali. Una cosa volevo chiederti, poi ritorniamo alla musica argentina: come hai fatto a riproporre i pezzi di Velvet Underground? A me piace particolarmente non so, un pezzo qualsiasi di dei Velvet Underground nella tua chiave. I Velvet sono stati parte anche loro di quel tratto di percorso musicale in cui... In chiave blues poi l'hai fatto. In chiave blues, sì. Un esempio velocissimo, poi ritorniamo alla musica argentina. Che pezzo dei Velvet? Fai 30 secondi ce la fai. 30 secondi. Un pezzo di Velvet in chiave blues, 30 secondi. Vai. In chiave blues... In chiave anatosato. In chiave... Anatosato. Here she comes, you better watch your step. She's going to play you for a fool. It's true, 'cause everybody knows she's a femme fatale. Dov'è Nico? Dov'è Nico? È scomparso. Dov'è Nico? Purtroppo se n'è andata. Bella voce rimane. Un po' cruda di Nico, sì. Esattamente. Scusami Agostino, però no, è un amore viscerale. Guarda, che io non mi tramonta vedo, mai. C'è Chiara che mi ha fatto questo segno, c'ho la pelle d'oca. Ma io lo sapevo, questa sera sarà per molti ascoltatori una cosa così. Per noi che siamo qui, che abbiamo a 30, un metro, insomma, più o meno. Vi informo, fanciulle, già che siete in ascolto, che c'è qualcuno che vi sta comunque registrando, vi lascerà comunque un segno in internet. Aiuto. Non siete in diretta, streaming video. Però verrà registrato comunque, abbiamo un sistema di registrazione, poi verrà comunque messo il video, mentre il podcast di questa trasmissione verrà comunque poi a breve messo in diretta, quindi lo potete sentire e risentire. Dobbiamo salutare Roberto Baldi, quello che sta girando. Ringraziamo, infatti stavo per dire, ringraziamo Roberto Baldi che sta facendo questo giochetto per le nostre ragazze. Stasera abbiamo la regia top, insomma. Al massimo. Michele e Roberto. Poi le quattro, insomma abbiamo tutto, non ci manca niente. Ci manca la voce di Anna che ci fa ascoltare qualcosa. Sì, allora il primo brano è un brano scritto da una compositrice sudamericana molto famosa, Violeta Parra, ed è dedicato ad una poetessa. E, il titolo di questo brano è Alfonsina y el mar. Luna di Osera. Pequeña huella no vuelve más, un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda, un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo fondo scuro del mar, la caracolla. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal. Te requiebra el alma, la está llevando, y te vas hacia allá como un sueño. Dormida, Alfonsina, vestida de mar. Cinco sirenitas por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y si llama a él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal. Te requiebra el alma, la está llevando, y te vas hacia allá como un sueño. Dormida, Alfonsina, vestida. Bravissima, niente da dire. Cioè, io lo so, insomma, è un'ora e mezza che passeremo questa sera, ma sarà difficile arrivare veramente incolumi. Io ne approfitto per aprire una piccola parentesi: è arrivato un altro sms che non riguarda te, Anna, ma riguarda la Rita, e dice: grazie, bellissimo evento, ci state regalando delle emozioni splendide con un valore aggiunto che tocca i cuori, la voce di Rita. Saluti e complimenti a tutti, Ari e amici. Bene. Quindi questo è un motivo di vanto, ripeto, questa sera, non per essere un po' presuntuoso, ma credo che Blu Radio Veneto stia regalando ai suoi ascoltatori, e non solo, un momento veramente splendido di 90 minuti di emozioni continue. E non per essere, ripeto, presuntuoso, ma credo che nessuna radio qui a Padova abbia mai fatto un evento di questo genere. L'idea è partita da Maurizio, che mi ha proposto questa cosa. Lui sa che ho i miei ganci ben precisi, vi ho contattato e sono stato veramente felice della vostra adesione totale, subito, senza nessun pensiero, senza nessun dubbio. Grazie anche a te, Anna, ovviamente. Grazie a voi, grazie a voi davvero. Anche a te la stessa domanda che faccio alle altre due: chi è Anna Tosato? Anna Tosato è una grandissima appassionata, amante, amica, madre, figlia della musica. Un insegnante di canto veramente appassionata. Io ci metto veramente tutto quello che ho. Sì, scusa il microfono. Metto veramente tutta la mia passione e soprattutto il mio impegno nel migliorarmi sempre. sia come cantante che come insegnante, perché penso che la strada sia veramente sempre in salita. E ogni volta, almeno a me succede questo, ogni volta che faccio un gradino ne vedo altri 20 davanti, per cui anche la severità con me stessa sicuramente aumenta di volta in volta, quindi l'esigenza di far bene, di fare sempre meglio c'è in tutto quello che faccio e quel che riguarda la musica, ovviamente, sì. Quindi tu continui su questa linea? Continuo, continuerò sempre, sì. Fa parte, sì, della tua vita 24 ore su 24. D'altronde, uno dei miei grandi maestri di riferimento nel canto, non lo cito solamente per rispetto, disse, quando cantavo i miei amici mi dicevano: sei stonato come una campana, ma cosa fai? E lui si è messo veramente con un impegno assolutamente inusuale ed è arrivato a diventare uno dei maestri di canto veramente più conosciuti e più seguiti in Italia, per cui facciamo il nome. Sì, è una grandissima persona, è Albert Era, ed è uno dei veramente dei più quotati, ma è uno di quelli dai quali ho ricevuto molto di più, sia a livello tecnico, per carità, ma a livello umano proprio. Ti devo chiedere una cosa, un altro omaggio. Nel 2004 hai citato i Velvet Underground, però hai citato anche Leonard Cohen. 30 secondi di un pezzo Leonard Cohen a tuo piacimento? Non cito Fabbrica Musica del 98 con Oliviero Toscani, il percussionista indiano, che è un po' difficile, però questo, 30 secondi, su un flash. È un brano, il brano quello reso più famoso poi da Jeff Buckley. Sì, un piccolo flash, una roba di 30 secondi, flash. Solo un flash, piccolino. Well, I heard there was a secret chord that David plays and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Grace era un album inimitabile e Jeff Buckley era un musicista inimitabile. Il Mississippi se l'ha preso, ma forse qualcuno ha detto ha voluto lui buttarsi nel Mississippi. Credo sempre che sia, che abbia voluto lui, non lo penso. È stato il destino, io credo, sì. Personalmente credo sia stato un incidente. In ogni caso rimarrà sempre la sua musica. Un album solo che ha fatto epoca, si chiamava Grease, era Jeff Buckley ed era figlio di Tim Buckley, un altro grandissimo. Un grandissimo Tim Buckley, qui ritorniamo sulla voce, un grandissimo sperimentatore vocale. Esatto. Devo dire, sì. Esattamente, un grandissimo sperimentatore vocale. Se qualcuno ascolta Sefronia, come si chiama il disco di Tim Buckley, può capire da dove l'esperimentazione vocale. C'era un altro in Italia, si chiamava quello di Demetrio Stratos. Demetrio. Esattamente, sì. Un altro genio. Ok, adesso Anna ci proporrà un'altra cosa. La canzone che ha preso il suo spazio, per chiudere il suo spazio. Sì. Cosa ci fai ascoltare? Questo è un tipico brano folcloristico argentino e si intitola Arenosa. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Arenosa, arenosita, mi tierra capayateña, el que bebe de su vino gana sueño y pierde pena, el que bebe de su vino gana sueño y pierde pena, el agua del calchaquí, padre de todas las siembras, cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y no sueña, cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y no sueña. Arena, arenita, arena tapa mi huella, para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla, para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla. Luna de los medanales, lunita capayateña, luna de arena morena, en carnavales de ausencia, luna de arena morena, en carnavales de ausencia, deja que beban tu vino, la sabia capayateña, y que me pierda en la cueca, cantando antes que me muera. Y que me pierda en la cueca, cantando antes que me muera. Arena, arenita, arena tapa mi huella, para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla. Para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla. Para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla. Blu Radio, dai colore alle tue frequenze. Siamo noi, Ida Guglielmotti e Marco Parce, ad accompagnarvi dalle 17.06 nel viaggio virtuale di Serata in Blu. Anche quest'anno ogni giorno un tema d'apertura. La strada e i viaggiatori. Il web, la televisione, il cinema e il teatro, psicologia e pedagogia. Nella seconda parte invece gli appuntamenti di cultura e spettacolo, in collaborazione con le redazioni locali. Ed in chiusura le rubriche di turismo internazionale, i libri, la scienza, piccole lezioni universitarie ed arte. Serata in Blu, da lunedì al venerdì, dalle 17.06 alle 19.00. Sulle frequenze in blu. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Blu Radio. Blu Radio. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Anna, grandissimo, Hai emozionato anche tu. Ero emozionata anch'io. Senti, ne approfitto perché anche a te è arrivato un SMS. Salve, ho appena ascoltato una stupenda canzone argentina, ma come si chiama la bravissima interprete? Grazie, Anna. Come si chiama la bravissima interprete? Come lei, Anna. Anna Tosato, si chiama Anna Tosato e fa parte di questo fantastico quartetto. Ma non potrebbe essere un'idea per fare proprio una cosa continuata? C'è già un... Queste quattro ci voci. Sono altri musicisti e cantanti originari questa volta del Sud America che vivono qui a Padova, cioè tra Padova e Milano, e stanno portando avanti, anche se con difficoltà, perché non è una musica conosciuta, certo. E per certi versi non di immediato ascolto. Quello sì. Però stiamo cercando, abbiamo iniziato a collaborare e sono collaborazioni veramente ricche. Stiamo cercando di promuovere un pochettino questa musica che è davvero benissimo. Grazie intensa. Ancora di essere venuta. Grazie mille a voi. Lasciamo lo spazio all'ultima, quella che chiude il cerchio, e poi li sentiremo tutte insieme in questa serata splendida. L'ultima persona, ma non perché sia l'ultima. No, assolutamente no. Vi posso garantire che è stata fatta una selezione tramite un bigliettino per la scelta delle quattro persone. La Rita ha avuto questa brillante idea, così non c'è stato niente da dire. Claudia, ti è toccato l'ultimo posto. Ho pescato il bastoncino più corto. Allora, la quarta cantante si chiama Claudia Ferronato e forse la conoscete già, è una delle cantanti in più in voga. Claudia, sei un po' dappertutto, suoni in tanti. Sono come la gramigna, dicono i miei amici. Benvenuta Claudia. Grazie. Sì Claudia, a me interessava una cosa fondamentale. Da tanti anni fai parte dei Calicanto. Calicanto, sì. È un gruppo che abbiamo cercato, cioè è venuto anni fa qui. Sì, e tornerà. La Claudia me l'ha promesso assieme ad Alessandro che ci sta ascoltando e assieme a tutto il gruppo ovviamente. Esattamente, è un gruppo particolare perché è alla ricerca delle tradizioni venete rivedute e corrette da loro. Quella è una cosa molto interessante. Questo ritorno, una volta c'era un grande ritorno alla ethno music, la ricerca delle radici. Poi si è un po' perso, però adesso sta ritornando. Cosa ne dici? Ma dico che il nome stesso del gruppo porta il messaggio di cui tu hai appena parlato. Calicanto, un fiore che nasce d'inverno, quindi un po' controtendenza. E Calicanto è nato 30 anni fa, perché l'anno prossimo festeggiamo i 30 anni di esistenza. E in un periodo in cui andava di moda interpretare la musica degli altri, andava di moda il blues, andava di moda la musica che arrivava dagli States, dall'Inghilterra. Perciò Roberto Tombesi, che è stato fondatore, sicuramente mente ideatrice di questo gruppo, è stato proprio controtendenza. E controtendenza anche, lo diciamo con orgoglio, noi Calicanto, dopo 30 anni essere ancora qui a fare questa cosa. Quanti dischi avete pubblicato fino a questo momento? Esce in questi giorni, udite, il 14esimo disco. 14 dischi hanno fatto. Tanti dischi. Esce Mosaico, che è secondo me un bellissimo collage di ciò che c'è, ciò che abbiamo portato avanti in questi ultimi anni, un po' di lavori teatrali, lavori con orchestre, lavori di composizione, e tra l'altro faremo delle presentazioni anche un qui. Po' sparse anche qui, anche certo. E infatti ne approfitto, scusate, perché il 15 dicembre al San Gaetano a Padova alle 18 faremo un concerto e avremo in anteprima come primizia il disco, per cui bene. Presenteremo alcuni brani del nuovo lavoro, insomma. Bravissimo. Allora l'aspetteremo con sì, certo. Questo sarà un piacere. A parte il Calicanto? A parte Calicanto, questo duo con Andrea Pedrotti, mio compagno nella musica e non solo, è molto recente. E un'altra realtà che nasce all'Art Voice Academy, che è la scuola di Castelfranco in cui insegno, in cui c'è un progetto di musica swing anni 30, anni 20 e 30 italiana, per cui siamo quattro voci femminili accompagnate dall'Orchestra Filarmonia Veneta, e domani sera siamo a Trevignano a presentare questo spettacolo ed è un progetto divertente. Poi collaborazioni con il mio grande amico Luca Francioso. Ce l'ho anch'io, prossimamente. Non sei l'unica. Che mi interpella. Saluto a proposito, ciao Luca. Ciao Luca, che mi interpella per le Ninne Nanne ed altri progetti. Ma lì insomma parlerei più di amicizia che di... Infatti io ti ho conosciuto una sera che sei venuta a presentare con lui un disco. Sì. Non so se ti ricordi. Mi ricordo, sì. Un bel po' di tempo fa. Vabbè, cosa ci fai ascoltare? Poi magari ne parliamo ancora. Con Andrea abbiamo pensato di partire con un brano scritto da Carole King, reso più famoso da James Taylor, e vorrei fare anche una piccola premessa dal momento che prima ho sentito che ne parlavi. Abbiamo presentato questo brano il 26 novembre a Rubano in una serata in cui si raccoglievano fondi per le popolazioni alluvionate del nostro territorio. Abbiamo presentato questo, quindi come augurio e ricordando anche quelle persone, abbiamo il piacere di rifarlo stasera. You got a friend. Down and trouble, and you need a helping hand, and nothing, oh, nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up your darkest night. You just call out my name, and you know wherever I am, I come running to see you again. Winter, spring, summer of all, all you gotta do is call, and I'll be there. Yes, I'll be there. You've got a friend. If the sky above you should grow dark and full of clouds, wind should begins to blow, keep your head together and call my name out loud, and soon I'll be knocking at your door. You just call out my name, I am, I come running to see you again. Winter, spring, summer or fall, all you gotta do is call, pleasure. Hey, it ain't good to know that you got a friend when people can be so cold. That I hurt you and desert you, but you take your soul if you let them. Whoa, don't you let them. You just call out my name, and you know wherever I am, I come running to see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you gotta do is call, and I'll be there. Yes, I'll be there. You've got a friend, and you've got a friend, you've got a friend, friends in me, you've got a friend, got friends in me, you've got a friend, seconds to listen, wondering now, you've got a friend to know, yeah, yeah. You've got a friend. Io vorrei farvi l'applauso che avete ricevuto quella sera, perché c'era quando me l'hanno fatto, appena finito questa canzone. Grazie. Il palco era diverso, era molto più largo, molto più comodo, eravate, però è stato veramente splendido, e anche questa sera ci avete regalato un'emozione fortissima. Ne approfitto per aprire un'altra piccola parentesi. È arrivato un altro sms, dice: buonasera, siamo senza parole nel sentire queste voci favolose. Volevamo fare i nostri complimenti a Rita, che ha una voce stupenda senza togliere nulla alle altre. Volevamo poi salutare la Alice, ieri sera era pure la più bella, sono sicuro che sta ascoltando la trasmissione. Andrea e P, non so chi è sto P, vai, scusa, chiedo scusa. James e Carole King si sono riuniti dopo tanti anni dal vivo, hanno fatto questo concerto che ha avuto un grande successo un anno e mezzo fa, e la musica di James Taylor e di Carole King non morirà mai, se ci sono interpreti come voi, chiaramente. Oh, pezzo mamma, meraviglioso, lusingatissimo. Claudia, chi è Claudia? Sai che sentendo questa domanda prima mi sono fermata in un angolo a riflettere. L'ho fatta tutte e quattro, per quello era giusto farla anche a te. Io devo dire che Claudia oggi è una donna. Bene, intanto. E per me è tanto dire questa cosa. Per quanto riguarda il percorso artistico, che non posso separare da quello che è stato il mio percorso umano degli ultimi anni, un percorso di grande ricerca, di grande lavoro su me stessa, è una Claudia che sta riscoprendo, dopo tanta attenzione per la tecnica vocale, sta riscoprendo il piacere della voce per quello che è. Una voce sì tecnica, ma una voce che parte dalla pancia e che, passando per la pancia, passa per lo sterno e quindi raccoglie le emozioni del cuore, esce dai polmoni, non tralasciando la testa. Quindi un'interezza nella persona che si traduce in una completezza della voce, e non finirò mai di ricercare questa cosa e non riuscirò mai a scindere la mia voce da questa ricerca. E continuerai su questa linea? Sono qui, così, così mi presento. Progetti futuri, Claudia? Progetti futuri, io devo dire che sono molto felice di quella che è la mia vita oggi. E quindi vivi la sua... Tanta gente mi dice: ma perché non ti diventi famosa? Io credo che ho fatto della voce e del canto il mio lavoro e ancora non ci posso credere. E magari così sempre. Immagino. Non saprei cos'altro dire, veramente. Allora, ci rivediamo con i Calicanto qui. Certo. Ci verrai il regalo. Adesso però cosa ci regali? Ora un regalo di Natale che vorremmo fare a voi di Blu Radio Veneto, a tutti gli ascoltatori. È una versione di Let It Snow, che è un brano tradizionale americano di Natale, e ve la presentiamo così nella nostra personale rilettura. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. All the lights are turned way down low. Let us know, let us know, let us know when we finally kiss goodnight. Oh, I'm late going out in the storm, but if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let us know, let us know, let us know. Oh, it doesn't show signs of stopping, and I brought some curve for popping. All the lights are turned way down low. Let us know, let us know, let us know. And my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let us know, let us know, let us know. Let us know, let us know, let us know. Let us know, let us know. Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Allora, sono le 22:15, quasi 16 minuti di questo giovedì. Dobbiamo accelerare, accelerare. Però adesso le mettiamo tutte insieme. Tutte insieme, perché come nei grandi spettacoli, prima si esibiscono da sole, adesso le artiste ritornano tutte sulla scena. Adesso le sentiamo tutte e quattro insieme. Tutte e quattro insieme per due cose molto belle, di cui una bellissima e una stratosfericamente bella. Prima ascoltiamo la bellissima, ecco. E poi parleremo dell'altra. Le mettiamo tutte insieme perché è giusto regalare, questo è il loro regalo, sì. Ve lo diranno anche loro, è il loro regalo che fanno agli ascoltatori di Blu Radio Veneto, e noi siamo ultra felici di sentirle in questa veste così tutte insieme. La stanza è un po' piccola, ma cercheremo di starci meglio che si può. Allora, cosa ci fate ascoltare innanzitutto e poi ci salutiamo? Wade in the Water. Di? Wade in the Water è un traditional del gospel. Scusa, ho avuto un attimo di esitazione perché. Poi facciamo la. Stavo pensando, a no. Quale delle sorprese. No, quella dopo, alla fine è quella. Allora, facciamo subito. Wade in the Water. Wade in the Water, esatto. Troubled water, wade in the water, wade in the water, children, wade in the water, God's gonna trouble the water. Who's that young girl dressed in red? His land, God's gonna trouble the water. In the water. troubled water God. It's gonna trouble bellissimo, bellissimo, bellissimo, brave, brave, bravissime, grazie, grazie, grazie, grazie mille. Maurizio, sentito? Avete mai cantato tutte e quattro insieme? No, in realtà avevamo pensato un altro brano, io ho detto un altro titolo e noi siamo partite così, quindi perfetto. È stata veramente tutta molto molto improvvisata. È bello della diretta, certo, è certo. Bello di Rockwave, chiaramente, questo, Blu Radio. Blu Radio Sera, però Rockwave viene fra pochi minuti. Era sempre la stessa famiglia, praticamente. Sì. La stessa famiglia. A proposito, ricordiamo che tra pochi minuti c'è Alberto Prisco con la sua trasmissione, appunto, Rockwave, la classifica di musica rock. Allora, noi a questo punto sono le 22:20, direi che possiamo... Il perfetto orario. Prima di passare ai saluti, ringraziamo ovviamente di essere venute qui. Peccato che un'ora e mezza voli. Io vi aspetto, anzi noi vi aspettiamo tutte e quattro una volta per ciascuna. Che grazie, grazie. La prima sarà la Rita, il 23. Che, sì. Quindi facciamo un po' di pubblicità anche nei nostri programmi. Quindi il 23 di dicembre ci saranno i White Voices, appunto, con la Rita, che è una dei componenti assieme agli altri. Laura, Marco e Marco il pianista. E Alessandro. Bene. E dobbiamo fare quella cosa o salutiamo prima? Salutiamo prima. Dovete dire qualcosa voi? No. Noi ringraziamo voi per l'ospitata, è stata veramente una serata divertente e sicuramente inusuale. Inusuale, questa è la parola giusta. Mi ha fatto piacere, vi ringrazio della vostra disponibilità. Grazie a voi. E ringrazio i musicisti che ci hanno fatto compagnia anche loro. Mi dispiace che la stanza magari è un po' stretta, ma comunque ci siamo stati bene bene. Ringraziamo Michele che ha curato tutti gli organigrammi della regia e la signorina Chiara che ha fatto le fotografie. E poi Roberto che finalmente ha predisposto le telecamere, quindi in questo momento vi stanno... Non ci vedranno. Non ci vedranno tutta. Ci vedranno prossimamente. Registriamo lo stesso video. È già qualcosa. Perché purtroppo non è disponibile il server, ma non è colpa nostra, insomma. Allora, Blu Radio Veneto vi augura un buon proseguimento della vostra carriera. Grazie. Anche a nome mio e anche a nome di Maurizio, ovviamente. Vi aspettiamo. E prima però di salutarvi c'è quel... Sì, c'è un omaggio, un ricordo di una giornata tragica, ma anche un omaggio a una musica che non morirà mai. Allora, io vi do l'appuntamento per quel che mi riguarda prima di partire, a giovedì prossimo, sempre alle ore 21, sempre con Maurizio, intervisteremo due persone però a livello telefonico, due grandi artisti che avremo modo di conoscere, Nando Misuraca e la Nan Bulan, che è una chitarrista, e per quanto mi riguarda ringrazio di nuovamente loro, ringrazio Michele della cortese disponibilità anche lui in regia, grazie a te Maurizio, grazie, e lasciamo lo spazio a loro. Quando la macchina si fermò davanti al Dakota, erano le 22:50. Uscì prima Yoko, seguita da John, che portava con sé un registratore e delle cassette. Quando Yoko passò, egli le disse «Ciao!». Quando John gli passò accanto, diede a Chapman un'occhiata. Come Chapman disse in seguito, «Mi ha fotografato». Chapman fece due passi nell'ingresso. Entrasse la pistola a canna dalla tasca e si mise in posizione di tiro, ginocchia flesse e una mano sul polso dall'altra per tenere la pistola ferma. Non disse una parola, parlò solo la sua pistola. I primi due colpi raggiunsero Lennon alla schiena e lo fecero girare su se stesso. Due dei tre successivi lo colpirono ad una spalla. Uno mancò il bersaglio. Al frastuono degli spari si aggiunse il rumore delle vetrate che andavano in frantumi, perché le pallottole finirono lì la loro corsa dopo aver trapassato il corpo di Lennon. Quando Chapman finì il caricatore, fissò l'ingresso, aspettandosi di vedere il corpo riverso di Lennon. Non vide nulla. Chapman era talmente fuori di sé quando sparò che non vide John aprire la porta della vetrata e arrancare per i 5 scalini che portavano nella guardiola del portiere di notte. Jay Hastings, il giovane capelluto portiere di notte, stava leggendo una rivista quando udì il rumore del vetro rotto seguito da alcuni passi. John Lennon incespicò dentro con uno sguardo orribile e confuso, raccontò Hastings. Yoko arrivò urlando: «Hanno sparato a John!» Per un attimo Hastings pensò che fosse tutto uno scherzo. Poi vide Lennon crollare, il registratore e le cassette volare rumorosamente per terra. Hastings schiacciò un pulsante che dava l'allarme alla vicina stazione di polizia. Poi si portò accanto a John per togliergli gli occhiali frantumati e per coprirlo con la giacca della sua uniforme. Quando Hastings si levò la cravatta per usarla come laccio emostatico, si rese conto per la prima volta della gravità delle ferite di John. Gli usciva sangue dalla bocca e dal torace. Aveva gli occhi aperti ma fissavano il vuoto, raccontò Hastings. Gorgogliò una volta, vomitando sangue e materia. Yoko gridava di chiamare un dottore. Hastings fece il 911. Ritornando al fianco di Lennon, gli sussurrò: «Va tutto bene, John». So this is Christmas, and what have you done? Another year over, a new one just begun. And so this is Christmas, I hope you have fun, the near and the dear one, the old. This is Christmas, for black and for white, for yellow and red ones, to stop all the fight.